Fabri, Gianni l'altro, Doppio Room, Giovanni Ritti e poi chi c'era? Un attimino c'era Graziano, sino a 10 minuti fa. Adesso tutti sono andati a mangiare, io l'ho lasciato acceso, sono qua in giro sul computer, mi sto facendo qualche giro. Adesso l'ho lasciato acceso, ho sentito a te. Graziano! Oh, Graziano, l'amico di Gio Maria, così si chiama. Ah, buffo! Non so, un paio di volte l'ho sentito, non so come si chiama. E già è lui, già è lui. Ma è Teanotto, non è Gio Maria, quella persona. Ma che è vecchio, ma non so, la sessantina, no, neanche. Non lo so, non lo conosco anche di persona. Ah, lo conosci di persona o no? Gio Maria è più grande di lui. Non lo so, mi sa di sì. No, sono tutte persone che le ho sentite poi al baracchino, anche se Gio Maria l'ho sentito da uno dei primissimi insieme a te che ho sentito, però non ho mai avuto modo di conoscerlo. KK, lui. E beh, che si dice lui? Ma non sei venuto, sta trabagliando, niente, non hai trovato niente. No. Nine. Al momento, cioè sta aspettando una chiamata, però ancora niente. Sempre al comune o altra cosa? Sì, comune. Beh, ma vanno in giro, boh, la tanta gente sta cercando, ma tutto bloccato. Anche Natalino, l'altro giorno un amico mio è venuto in officina, la stessa cosa. Questa addirittura c'era con la TP, quelli che l'hanno messo in cassa integrazione, non so cosa hanno fatto, boh. È uno di quelli che dice hanno denunciato la TP pure per illecito, boh. Non è nulla, è un casino, roba. È un casino. Ascolta, roba, un mio amico praticamente un liquido che l'ho portato dalla macchina. Cioè, molte volte, no? Quella è la chiusura, quel coso che... non so come viene chiamato. C'è un nome sicuramente, no? Allora, spiegami che macchina è il problema. Prima di tutto, che macchina è? Fiat 600. Fiat 600, stiamo dicendo. Fiat 600, ma che lo porterò chiude, però non chiudo la chiusura per... Oppure con la chiave, non gli chiude. No, scusa un attimino, ma cosa c'è centralizzata questa macchina? No, ma sì, dopo che c'è la chiusura centralizzata, c'è. E vabbè, ci sono le 600 con la chiusura centralizzata. Ma cosa lo sento? Beh, e niente, non c'è. Cioè, ma quando chiude, non è chiuso, quando non chiude va a chiave. E neanche là dentro, praticamente là dentro, per chiudere, però non chiudere bene là fuori. E poi tirare e abbassi il tappino. Allora sì che chiude. Ma poi venire in officina e vediamo di cosa si tratta. Perché poi, allora ti spiego, quelle serrature hanno un sistema a rotazione, l'hai visto, il gancio a rotazione sul battente della battuta. Se non fa lo scatto completo, perché c'ha due scatti, c'è un primo scatto e il secondo scatto. Se il secondo scatto non viene fatto completamente, la chiusura, il pulsante non funziona, automaticamente se giri la chiave per chiudere non funziona. La prima cosa che bisogna fare è con lo sportello aperto e vedere come si chiama, se fa tutto lo scatto la serratura. Se la serratura fa tutto lo scatto, può essere il blocchetto di serratura, bloccato da ingrassare o sacco di cose, bisogna vederlo. Però è un attimino quello, la prova ci vogliono 5 minuti, lo fai venire, a nome tuo, glielo dici. Vabbè, lo sapevamo tu li prendi prima, ecco. Cacchio, qui dentro non costa niente, se ho una registrazione o una cosa del genere non paga nulla, perché qua si che c'è solo da registrare il battente. Se invece devi aprire il pannello e smontare, ingrassare tutto quanto è un'altra cosa, ma non stiamo parlando di cifre esagerate, dipende dal tempo che ci metti, ci puoi mettere mezz'ora di lavoro tra smontare e piazzare, tanto li domandi 15 euro di mano d'opera. Se poi invece c'è da sostituire la serratura o cosa del genere, bisogna vedere cosa c'è da cambiare, in base a quello devo fare. Ma io prima di fare il lavoro chiedo sempre e faccio sempre il preventivo, però una verifica di quello che c'è non costa niente, glielo dici, se vuol venire glielo faccio in presenza. Ma secondo me glielo dico, no, perché dice che glielo ho rotto io chiudendo, ci chiudi troppo forte, io chiudo normale, cioè, ma cosa ha fatto l'altra volta? Poi si è abbassato con la storia che chiude, no? Non so come non viene, ma se la storia diceva l'ha chiusa, lui ha fatto chiudere pure forte dentro il portello, lui ha lanciato di più sicuramente, allora ripeto, chiude, però non chiude la chiave o da dentro, cioè lui lo scordano bene. Allora, passa la serratura. Non so cosa succede molte volte. Allora, lo sportello della 500, c'è un tirante che non vale nulla, cioè la 500 e la 680 sono simili, e molte volte prendi un colpo di vento e pieghi le cerniere, per cui il battente non ti risulta perfettamente centrato, il battente di chiusura, chiamiamola la guida di chiusura, per cui tu quando vai a chiudere sei convinto che si è chiuso lo sportello ma non ha fatto completamente il secondo scatto, e da lì succede che tu vai a chiudere, non... è come quando c'è una serratura che è girata a metà il coso e non ti permette di fare tutto il movimento, perché deve fare il movimento completo di chiusura, è fatto apposta, se no si chiuderebbe al primo coso. Chi è che vuole andare avanti? Ciao Luca, ciao Roberto, buonasera, Domenico qua. Ciao Domenico, in Girella andando verso giù, Cartagine. Positivo, direzione a Bascio, anche oggi ci tocca. Bello. Ciao Domenico, mi ascolti? Sì. Microfono. Ehi, ti ascolto bene Luca. Bello, perfetto, dai. Ho moletta qua. Ufficio deve entrare, Quanto siamo con Maluccio, tu? Sei mi detto una lattina di Coca-Cola? Come una bella? È l'antenna di Red Bull, capito? L'antenna è Red Bull. Guarda, non mi piace, non sei tu, non sei neanche tu. Non è il mio apparato, capito? Non è il mio apparato questo qui. Non è neanche la mia macchina. Che inizia? Non ho capito, andava avanti, Roberto. Cosa ha detto? Ho detto che non è il mio apparato, capito? Non è il mio apparato, questo qui è il mio collega, guarda che va male. Beh, c'è questo effetto eco abbastanza ripetitivo, vabbè, dai. No, sei chiaro, però l'ultima frase che hai detto poco fa non ho capito, comunque adesso chiaro, ho capito che non è il tuo l'apparato di un coso, di un tuo amico, ma cos'è, che apparato è questo? No, il Magnus S9 è questo qui. Sono quelli apparati di nuova generazione, tutti digitali, mamma mia, perché sono un po' esagerati con tutti questi effetti che c'hanno, l'eco, preferisco la 48 a quel punto, dai. No, è che glielo taro, lo metto a posto, tutto caldo, e lo rifruga di nuovo, capito? Dai, di buono che l'eco è bellissimo, nel senso è bella chiara la ripetizione, cioè la voce non te la sporca, però da usare come la vedo io con gli apparati con l'eco non mi piace, preferisco un baracchino che si senta bene, forte, senza gli effetti aggiuntivi, modulatori aggiunti, effetto elicottero, effetto aereo, cosa aveva? Dai, volevo dire. Purtroppo in macchina bisogna usarli, capito? Anche a me mi piacciono, però temporaneamente non mi piacciono, però ti danno una maggior spinta, capito? Usando le macchine come lo usiamo noi in casa e tutta un'altra minestra, capito? Vabbè, voi lo fate permettere, per cui ti devi far sentire, dai. Ciao, Roberto, dai, io qua sono già alle 8:20, c'ho fame. Arrivata a fine settimana. Avete parlato in due, ho capito Luca, sono le 8:20, deve andare a mandigare, dai, vai, non c'è problema. Io rimango un po' qua, tengo acceso, se qualcuno, faccio compagnia a Domenico, di che ci sente. Avanti di nuovo Domenico. Ciao Luca, chi vuole entrare avanti. C'è cosa? No, c'erano tutti diciamo, molti c'erano, non tutti non si dice, quasi tutti sono andati a mangiare, comunque c'era Claudio, Capri, Gianni Doppio Room, questo tipo di poi c'era questo Graziano, Claudio l'ho già detto, poi è entrato un attimino Giovanni da Itti, poi c'era Luca e basta. Mi si stava dicendo prima che con l'altro arrivava un po' più forte, come mai? ti sento male, basso adesso. Ma è lo stesso mezzo o c'è anche un mezzo diverso? Ti sento bassino, dai, adesso ti ho capito non bene perfettamente. È quello che mi meraviglia, perché ti ascoltavo sino a Campomella, Santiago 9, arrivava anche di più. Adesso questo pezzettino sei stato Santiago sì, basso. Ci sei ancora? Oh, come ti ascolto bassissimo, quasi mezzo a QRM, sì, non capisco. Perché anche poco fa lo stesso, boh, in ricezione e trasmissione forse non c'ha niente. Io tutto quel pezzo l'ho sempre fatto bene, fino a Campomela, tutto Santiago 9 ti ascoltavo, poi nella salita di Saccaggia, ti sentivo sempre perfettamente bene, poi ultimamente ti sento un pochettino più basso, e oggi è ancora più basso del normale, vabbè, mi ha detto c'è un apparato diverso. Chi è che chiama Canale 10? Sì, ciao B2, ben sentito anche a te. Ti ascolto Santiago 6, 7, Radio 4, dai. Domenica adesso ho migliorato tantissimo, sei quasi tendente al 9 come segnale. Ti rilancio il mic, vediamo un po'. A te avete parlato in due, vi due un attimino, stava parlando Domenico, scusa un attimo, hai detto Domenico? Non lo so, forse per qualche un altro, ma per me, credo anche per Claudio, io sono sempre ascoltato perfettamente, bene, Radio 5 e Santiago 9. Anche te c'è B2 da Porto Torres che stava chiamando, avanti di nuovo B2 se mi coppi. Ci sei B2? Non passo, riprenditela Domenico. E allora buon tutto, dai, buon lavoro e buona giornata per domani, ciao ciao. Avanti B2. Mi copri B2? E che chiama sul 10? Ora. B2, io ti ascolto, non so se tu copi a me, mi ascolti? Ma sei in movimento o sei fermo? Sì, dove sei arrivato però? Vabbè, non già stai arrivando bene, dai, no, pensavo fossi magari più vicino. Cioè più lontano, dai. Castari, zona alta, zona stadio. Via, già ci siamo sentiti altre volte. Sì, già stai andando, non c'è problema. Il microfono, il mic che cosa è? Il mic che stai utilizzando, che microfono? Stai andando alla grande, va benissimo, no? Radio 5, buona, buona, non è niente da dire. Cosa sei, con che mezzo sei? Sia fortissimo, però la radio è chiara, bella. Ma adesso siamo entrato di segnale, forse non so se è più favorevole, ma Robert, con che mezzo sei adesso tu? Ti muovi col camper, tu utilizzi il camper per muovere o per lavoro, cosa fai? Ho capito, va bene, dai, è buono, c'è anche io un camper non nuovo, vecchio d'età però in buono stato. Che camper è il tuo? Sì, di chi è? Noi, ma l'avevi già detto, mi sembra nuovo, quindi è il tuo. Non ti sento più, ci sei ancora? Sì, ti copro. Mi ha detto, è un Leica, non ho capito. Ti sento più, se stai parlando non ti capisco. E dimmi. E dimmi, ti sto ascoltando, dimmi. K, è nuovo come sta, di chi anno è? Ah, quindi è un mezzo nuovo, no. Va benissimo, dai, quelli sono già cose nuove, no, il mio è molto vecchio, quindi tu c'hai un bel camper, dai, complimenti. quanti anni tu? Sei camperista da tanti anni tu? Quindi ne hai tre, ne hai passato, in un anno hai fatto tre camper. L'avrei preso da trapasso? Ehi, dai, in qualche occasione già si trova, dai. No, no, io un po' più di te ce l'ho dal 2008 mi sembra che l'ho preso il camper. Ciao, ci sentiamo alla prossima. Ciao, buon tutto.